C'è il dirigibile della Bad Ion. È meglio andarsene via in fretta. Inserisci i super propulsori segreti. Inserisco i super... quelli lì. Allacciatevi le cinture là dietro, stiamo per diventare iperattivi. Ci stiamo avvicinando, signore. In meno di un minuto Stella Solitaria sarà nostro. Bene, prepararsi all'attacco. Prepararsi all'attacco. Conto fino a tre. Uno. Che è successo? Dove sono? Non lo so, signore, devono avere un propulsore su qualcosa. E noi cosa abbiamo sulla nostra nave? Un frullatore? No, signore. Bene, trovateli, prendeteli. Sì, signore. Prepararsi alla velocità luce. No, la velocità luce è troppo lenta. La velocità luce è troppo lenta. Sì, dobbiamo passare direttamente alla velocità smodata. Velocità smodata? Signore, non siamo mai andati così veloci. Non so se la nave potrà sostenere. Qual è il problema, colonnello Nunziatella Cacarella? Preparare la nave per la velocità smodata. Il test attitudinale di quest'oggi era un forse non tutti sanno che, e si occupava del cantante degli R.A.M. Michael Stipe dei R.E.M. L'ipotesi A presupponeva che fosse stato per 2 anni fidanzato con Freddie Mercury. Chi hanno scelto questa prima opzione? Sì. Hanno scelto una risposta sbagliata. E allora forse, come diceva l'ipotesi B, Michael Stipe è il padrino di Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courtney Love? Sì. È proprio così. Risposta esatta, 2 punti per la vostra patente da vero rocker. Non fu mai compagno di università di Paul Stanley, come ipotizzato dalla C, e non inventò mai i trucchi delle maschere dei Kiss. Complimenti a coloro che hanno azzeccato la risposta, per meglio dire... Complimenti a coloro che sono così informati da sapere che Michael Stipe è il padrino di Frances Bean Cobain. Bravi. Figlia di Kurt Cobain e Courtney Love. Cosa starà facendo adesso Frances Bean Cobain? È meglio non chiederselo, Frick. Non deve aver avuto una bella infanzia. Poverina. Poteva avere tutto, ma guarda quanto è maledetto il rock. Shiny Happy People, R.A.M. R.E.M. Benvenuti nell'ultima mezz'ora di pane, burro e rock and roll. Sarà veramente da terremoto, ve lo posso garantire. Da scaletta c'è roba che scotta in quest'ultima mezz'ora. Buongiorno dall'Ariele, altri 27 minuti da passare nella nostra diretta e vorrei iniziare quest'ultimo blocco in maniera seria grazie a una segnalazione che ci arriva via mail da Yuri, che ringraziamo. Andiamo ad approfondire un discorso di tecnologia e scienza del quale non ci capisco niente, ma la notizia ci piace tantissimo. Arriva a Milano ieri questo Chris Anderson, direttore di Wired, teorico della long tail, roba di economia. Cioè, questo è uno riconosciuto di fama internazionale per quanto riguarda l'economia. Perdonatemi se la butto così, ma io non ci capisco niente di sta roba. I suoi motti sono: il futuro è vendere una minor quantità di un maggior numero di beni. Cosa attira l'attenzione di Pane, Burro e Rock and Roll? Il titolo della news con la quale viene presentato questo Chris Anderson, ovvero: il web sta trasformando il mercato, con la lunga coda vince la nicchia. Agris, ho capito che sei di fama internazionale, ma stiamo attenti a giocare coi motti, eh? Perché la nicchia vincerà è nostro, è di Roberto Fricantoni, e lo difenderemo a spada tratta. Insomma, se vi va, se siete economisti e vi interessa l'argomento, andate a controllare. Intanto questo Anderson a me sta già simpatico, perché dal curriculum salta fuori che è stato un Pony Express e un musicista punk fino a 27 anni. Poi si è laureato in fisica, è diventato corrispondente dell'Economist per 7 anni, da New York a Hong Kong, e infine è diventato profeta di questa coda lunga. Non chiedetemi di spiegarvi cos'è la coda lunga, perché non lo so e non lo saprò mai. Despulcio da questo super articolo dedicato a questa benedetta coda lunga. Quando gli domandano come facciamo a essere sicuri che questi nuovi intermediari della disintermediazione creino un sistema davvero democratico e corretto, Mr. Anderson risponde: sono ottimista di natura. D'altra parte, da rocchettari punk trasformati in autori di fama globale, non lo sareste anche voi? Ma sai che a me sto Chris Anderson mi sta già simpatico. Comunque, la nicchia vincerà è nostro, eh? Se vuoi usarlo, tranquillo. Ci paghi un paio di royalty. Tra pochissimi minuti, Provino, Rock con la bocca, state con noi! Right. Non sto nella pelle, Roberto. Ma che lo dici, Ariel? Guarda qua, ho la pelle d'oca. Questa si chiama, non si chiama pelle d'oca, questa si chiama moquette sulle braccia, Roberto. Lei è un musicista? No. Non dica così, lei è un grande cantante, lei lo è un musicista. Ma ambirei a qualcosa di più. Lei vorrebbe diventare un musicista rock con la bocca, dica sì, la verità. Sì, è lo così, so. Lo lei confesso. Vorrebbe fare il suo provino su Rock FM. Sì, ma non può sì, farlo, sì. Perché lei è il conduttore di questa trasmissione. Non pianga, non pianga. In tanti là fuori vogliono diventare musicisti rock con la bocca e noi di Pane, Burro e Rock and Roll gli diamo questa opportunità. Una grandissima possibilità. Chi abbiamo? Chi abbiamo? Abbiamo una signorina. Ciao. Arriva. Ciao. Ciao. Miki da Milano, diciamo bene? Sì, benissimo. Benvenuta al provino per diventare musicista rock con la bocca. Grazie a te per aver aderito. Conosciamo un po' il nostro concorrente, Frick? Sì, sì. Faccia un po' di domande. Però di non, io lo so che lei adesso mi vorrebbe spingere a chiederle l'età. Ma non si chiede a una signora, una signorina rocker. L'età. Miki, chiedere l'età? Ha 32 anni 32. E li ha compiuti ieri, tra l'altro. Quindi, congratulazioni, auguri. Tanti auguri. Grazie. Tanti auguri. Quindi questo potrebbe essere il regalo di Rock FM, esatto. Il provino per diventare musicista rock con la bocca. Esatto. Possiamo, sì. Possiamo chiederti, nel caso la tua carriera da musicista rock con la bocca non dovesse andare, su che lavoro ripiegherai? Insomma, cosa stai facendo? Sto facendo l'impiegata all'ufficio acquisti di una banca. Bene, diciamo per ora, ma continuo a nutrire speranze per una carriera diciamo più rock and roll. Senti, come stiamo chiedendo agli altri provinanti, hai mai provato a suonare uno strumento? Suoni uno strumento vero? Diciamo che mi diletto un po' con la chitarra, ma non sono ancora molto brava. Alle medie il piffero? Troppo modesta, troppo modesta. Alle medie il piffero l'abbiamo fatto? Alle medie il piffero, sì, il piffero ancora. Perfetto. Ogni tanto. Però chitarra, già con la chitarra elettrica... La chitarra elettrica rende molto di più, ecco, fai tre accordi e già senti un suono che ti spacca, quindi è meglio. Esatto, ma ricordiamoci che qui non stiamo chiedendo all'amica Miki di suonare la sua chitarra vera, bensì di suonare la chitarra che ha dentro di sé. Esatto, imitando con la voce il suono della sua diletta guitar. Okay. Vai, vai Miki. Aspetta, tranquillizziamola ancora un po', maestro. Io sono lei eccitatissimo. È troppo eccitatissimo, è troppo eccitato. Sono un po' emozionata perché ho scelto una canzone che comunque è abbastanza difficile dal punto di ovvero? Vista. Ovvero? Ovvero She Sells the Sanctuary dei Cult. Ai. Una quindi bella, io sarò Billy Duffy in questo momento. Non è facile. Devo calare nella parte. Quindi tu hai detto per fare il provino ne provo una un po' difficilotta perché capiranno. Sì. Esatto. Cioè, quello esatto. Che spero è che la canzone si capisca. Miki, voi... guarda, veramente, dici solo una cosa. Ti senti pronta? Sì. Noi lo siamo. Certo. Tieni conto che la giuria terrà conto del livello del coefficiente di difficoltà. Allora, in diretta sulle frequenze di Rock FM, Miki, 32 anni, Milano, suona con la bocca, strumento, chitarra, i Cult. Miki, la radio è tua, prego. Non resisto a dare la batteria a Miki. Bravissima. Ragazzi, sono un po' emozionata perché poi la strofa andava avanti in modo diverso e avevo studiato anche tutto da solo. Miki, però purtroppo Miki, guarda, per il provino assolutamente bastava perché la stavi portando la canzone. Bravissima, nota, nota dopo nota. Incredibile. Bravissima. Poi sono nel cortile dell'ufficio, quindi capito, non è che sono proprio molto amminato, c'è il mio capo qua dietro, perdonatemi. Miki, guarda, il provino se così è andato benissimo. Come stiamo dicendo agli altri radioascoltatori, teniamo il tuo numero di telefono e speriamo di risentirci. Come si dice in questi casi, le faremo sapere. Va bene, cordiali saluti allora. Miki, un'ultimissima domanda in coda. Dovessimo sì. Fare una band solo con musicisti della bocca. Minchia, ci sono subito. Ah, benissimo. Miki, speriamo di sentirci veramente presto. Grazie per aver partecipato. Alla prossima. Grazie a voi, grazie. Sei dei nostri, sei dei nostri, Miki. Grazie. Yeah! She Sells Sanctuary, i Cult. Li siamo ascoltati prima con la radioascoltatrice che ce li ha suonati con la bocca e dopo ce li siamo ascoltati anche in diretta. Oggi ragazzi è un vero delirio la trasmissione. Avviso gli amici, quelli che se la prendevano per i Beatles in italiano, così quando scherziamo un po' con le band, attenzione perché tra qualche minuto c'è roba forte, roba goliardica. Preparatevi, cambiate stazione. Mentre numerosi gli sms delle radioascoltatrici che si stringono a cerchio intorno a lei, la nostra amica Rosy al grido facceli vedere, facceli toccare. Ciao Rosy. Ciao. Oh, si sono lamentate, vogliono vedere gli uomini nudi. Oh, questa settimana non l'avevamo ancora fatto, perché non chiamarti? Va benissimo, sono qua. Tutto bene, Rosy? Tutto bene, tutto bene. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che Rosy, per alzare gli ascolti di Pane, Burro e Rock and Roll, getta un po' di ormoni, così, via etere, facendo vedere maschi nudi alle radioascoltatrici. Esatto. Segnalo che è una rubrica, è stata costretta a farlo. Cioè, non è che Rosy, nella vita... Boh, poi non lo so, Guarda i calendari di uomini nudi, no. Boh, sì, un'occhiatina gliela diamo. No. Solo per lavoro. Brava Rosy, così mi piace. Sono una seria professionista. Ottimo, è così che ti vogliamo. Andiamo subito sulla foto di quest'oggi. Che calendario abbiamo scelto? Il calendario dei guerrieri. In che senso dei guerrieri? Perché in questo calendario vengono ritratti 12 modelli che rappresentano dei guerrieri moderni, cioè un ragazzo che sembra un guerriero metropolitano, un rapper. Ma tipo i templari ci sono invece? C'è un cavaliere medievale, c'è un indiano, c'è addirittura un pompiere, che è comunque un eroe moderno. Però sono nudi? Sono semi nudi, dai. Perdonami, il templare cos'è? C'ha la tunica un po' aperta? No. No, vabbè. Ti descrivo il cavaliere medievale. Ma guarda, non vedo veramente l'ora. Caso. Cavaliere medievale che è anche molto rock, scusami, quindi molto caschiamo rock. Veramente in piedi. Storia di armatura de ferro? De ferro, de ferro. Allora, il personaggio è raffigurato in una radura con un rio, un fiumiciattolo che scorre lì vicino. Si vedono sullo sfondo dei pini. Vai Rosy, vai, vai Rosy. E vai al sodo, su dai. Saltiamo il rio. Lui è raffigurato in torsione, quindi con la gamba destra che copre il membro. Ottimo. Ottimo. Quindi non lo vediamo oggi. Quindi non si vede. Mi spiace radioascoltatrici. Qui cambieranno tutti. Esatto. E l'armatura è indossata a metà. Parte dell'armatura è ai suoi piedi e quello che indossa è semplicemente lo spallaccio, quindi la parte di armatura che copre. Perdonami, lo spallaccio lo sapevi come cultura personale o l'hai letto? L'ho appena guardato. Ah, ok. Mi stavo preoccupando, scusa. Prego, continua. Lo spallaccio e il bracciale, che sì, è la parte di armatura che va a coprire, insomma, l'avambraccio e la mano. Mm. Posso immaginare che il lungo spadone sia è presente davanti. Eccolo, vedi, ormai sto entrando nel meccanismo, guarda, posso diventare un regista di calendari porno per maschi. Infatti. Lo spadone è chiaramente un simbolo fallico sempre presente in tutte le foto. Sì, però è in posizione non molto, è verso il basso. Rosy, fai sempre attenzione tu a questo particolare, eh? Scusa, già che c'era. No, perché non farlo in su? O comunque non così in basso. Cioè punta giù. Punta proprio giù. Punta giù. E con questa immagine di delusione che salutiamo e ringraziamo Rosy. Ah, aspetta, aspetta, dovevo ringraziare le ragazze l'altra volta. Ovvero? Martina e Alba. Ma tu non puoi immaginare in quante ti scrivono poi durante la settimana, eh? Te le salvo tutte che le poi... Le ringraziamo tutte okay. Oggi. Ok. Amiche, c'è Rosy che vi salva la giornata. Alla prossima. Ciao. Viva le spade, su. Ok. Ciao. And then, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. My hands are shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, gonna feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Apice della creatività di Pane, Burro e Rock and Roll, quando la nostra redazione si spreme come un'arancia per giocarci l'asso nella manica. E sa come si chiama l'asso nella manica? Me lo dica, per favore. Immaginazione! Sì, no, giusto, giusto, sì. La radio è immaginazione. Certo, certo. Pane, Burro e Rock and Roll è la quintessenza, sì, dell'immaginazione. Esatto. Ma guardi che qua noi abbiamo dei reperti storici. Aia, lei sta già svelando cosa sta per andare in onda. Il reparto immaginazione, la possibilità di riscrivere la storia del rock. E se fosse andata in un altro modo? Ma guardi che è andata proprio così. Noi abbiamo le prove. La redazione di Pane, Burro e Rock and Roll ha trovato le prove, sì. The evidences. Allora ci occupiamo di Led Zeppelin. Forse non tutti sanno che il signor Zeppelin, il conte Zeppelin, intentò causa contro i Led Zeppelin per l'utilizzo del suo cognome. Che lui diceva: è mio, cosa lo usate voi? Vi faccio causa. Sì, sì, insieme a tutti gli eredi che videro naturalmente usurpato il nome del parente, ma soprattutto videro anche la possibilità di farsi un po' di danaro. Esatto, nella realtà il conte Zeppelin non ha vinto la causa, quindi le Zeppelin hanno proseguito con la loro carriera. Ma se fosse andata diversamente? Ma andata diversamente, in guardi, che senso? DJ Ariely, io posso assicurare documenti alla, sì, mano che gli eredi della dinastia Zeppelin, sì, accettarono un congruo, sì, compenso dal gruppo dei Led Zeppelin. Facciamola breve, stiamo immaginando che a un certo punto gli dei del rock and roll si trovino completamente spiantati, senza più un cent nelle loro tasche. Ma è successo davvero? Senza più nemmeno uno strumento, una chitarra, un amplificatore, una batteria. Gliele rubarono tutti. E allora probabilmente come avrebbero potuto suonare Hula Lotta Love? Come in effetti hanno suonato, perché erano senza strumenti, nella necessità di realizzare il provino, pena una multa enorme, esatto, gigantesca. E quindi ti arrabatti. Fai un e po' quindi strumenti fai di quello fortuna. Che puoi, fai quello che puoi. Ma guardi che non è immaginazione, questa è realtà. Le cose andarono storicamente così. I Led Zeppelin suonati col kazoo. Oh! Sorry, guys. It's a terrible moment for the band. We haven't got instruments to play. But we've got the passion. Sono libero e ti sto aspettando, fratello, seguimi. Chiudiamo così pane, burro e rock and roll, puntata 131. Non sto a leggere i commenti dedicati ai Led Zeppelin col Kazoo, lascerò Garavelli divertirsi nel leggerli. È tutto, appuntamenti del weekend. Sabato mi trovate in provincia di Siena, Colle Valdelsa, al Sonar, per mettere un po' di dischi dopo il concerto dei Lombroso. E domenica invece a Varese sono invitato a una conferenza anche, già nel pomeriggio. Andate a controllare su amore.net o mi intervistano così, insieme a Davide Toffolo, insieme a un fumettista di Dylan Dog e ad altri, so importante, che ci vuoi fare? E la sera suono con i Pei a Varese. La tua colazione rock. Tracu, tracu, tracu, tra. Pane, burro. Ah, c'è anche uno dei Blu Vertigo. Così, per fare numero. Very good indeed. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buongiorno Marco Garavelli. Non ti senti? Aspetta che ti... Spadino, per favore. Ecco là. Ci stiamo? Ci sono, adesso senti, sì. Dovessero arrivare degli SMS di gente che si lamenta che suoniamo le canzoni col Kazoo, ricordati che gli ascoltatori che abbiamo sono tutti dei drogati, alcolizzati, cioè sono impazziti loro. Li tratti sempre male. Noi non abbiamo fatto niente col Kazoo, sia ben chiaro. Cioè, se mai gli editori dovessero lamentarsi, io non ho fatto niente. Al massimo è stato Frick Antoni. Chi l'ha portato il Kazoo? Qui? Frick. Frick ha una collezione di Kazoo, ne ha 200 a casa. E non solo di Kazoo, tra l'altro, ma vabbè, chiuderei l'argomento. Immagino. Così senza Chiudiamo. Approfondire particolarmente. Buona giornata. Grazie. Buon weekend. A lunedì prossimo. Ciao.